12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi parleremo del lavoro del restauratore, cercando di capire di cosa si occupa esattamente questa figura professionale e quali possibilità lavorative ci sono in questo momento per un giovane che volesse accedere a questo settore. Avremo ospite Barbara, con cui cercheremo di capire esattamente come funziona il mercato del lavoro in questo settore, e Giulia Simbula, giovane restauratrice, che ci racconterà la sua esperienza. Iniziamo subito quindi col cercare di capire di cosa si occupa esattamente la figura professionale del restauratore. Abbiamo fatto una ricerca nel sito del Borsino delle Professioni della Regione Veneto e Veneto Lavoro, che è un sistema di orientamento online rivolto a studenti delle scuole medie, scuole superiori, centri di formazione professionale e aziende, in cui sono disponibili informazioni sui profili professionali e sulle loro relazioni con i titoli di studio. Inoltre vi è un'area denominata quotazioni in cui si possono ottenere informazioni sull'utilizzo delle figure professionali nel mercato del lavoro regionale. Da questa prima ricerca abbiamo trovato una definizione iniziale del restauratore, che viene appunto definito come la figura professionale che è in grado di eseguire operazioni di contenimento di processi di degrado e di alterazione dello stato fisico ed esteriore dei beni mobili ed immobili, assicurandone la conservazione e il ripristino ex novo della struttura. Le conoscenze che stanno alla base di questa professione riguardano storia dell'arte, delle tecniche artistiche e architettoniche e degli stili, teoria e storia del restauro, tecnologia dei materiali per la lavorazione e il restauro, strumenti e attrezzi moderni e tradizionali sempre per il restauro, biologia, chimica, fisica applicata al restauro, il processo e le tecniche appunto del restauro, normativa sui beni culturali, sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni. Quindi diciamo conoscenze sia teorico-storiche che pratiche. Approfondendo poi la nostra ricerca, abbiamo trovato che il restauratore si occupa di avere un ambiente operativo di restauro in efficienza, in sicurezza e rifornito, di effettuare analisi tecniche di restauro documentate, di effettuare interventi di rifinitura del bene e interventi di base di restauro attuati nel rispetto degli standard tecnici e qualitativi definiti. Nell'area quotazioni del sito di cui vi parlavo prima, in cui si trovano appunto informazioni sull'utilizzo delle figure professionali nel mercato del lavoro regionale, abbiamo scoperto che Rovigo, Belluno e Venezia sono in ordine le province in cui la figura del restauratore ha percentuali maggiori di impiego. Per chi volesse consultare il sito del Borsino delle Professioni e quindi scoprire nel dettaglio tutte le informazioni che riguardano la figura professionale del restauratore, e non solo ovviamente, può collegarsi all'indirizzo borsino.borsalavoroveneto.it. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. E ora diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, Barbara. Barbara, benvenuta a 12 minuti. Grazie, buongiorno. Barbara, ci racconti chi sei e qual è il tuo lavoro oggi? Io sono una restauratrice, lavoro a Venezia per una grossa ditta di restauro di Venezia, e lavoro diciamo nell'ambito del restauro conservativo, vari cantieri che sono cantieri di solito di restauro appunto di affreschi, dipinti murali, lapideo, tutto insomma lavoro che riguarda appunto il restauro conservativo di palazzi storici o chiese, insomma, di un certo ambito, di una certa importanza. Ecco Barbara, il mercato del lavoro nel mondo del restauro, secondo te, in questo momento, che possibilità offre ad un giovane che volesse intraprendere questa carriera? Ma adesso il mercato è un po' particolare la situazione, nel senso che paradossalmente in Italia, a dispetto di tutte le possibilità che ci sarebbero in pratica, per l'abbondanza di monumenti e di cose da poter su cui lavorare, di opere, palazzi appunto, c'è un numero veramente alto di possibilità. In pratica la difficoltà è legata più che altro a quella dei contratti che ci sono adesso, che tendono un po', diciamo, allo sfruttamento, soprattutto su quanto, per quanto riguarda questi giovani che escono magari da scuole, da corsi professionali e che si vedono un attimo sballottato tra una ditta e un'altra con contratti spesso sottopagati e un po' sfruttati, diciamo, proprio dalle imprese, proprio perché sanno che c'è questa situazione e quindi c'è dietro tutta una situazione di, diciamo, di ricarico di personale, che è brutto dirla così, però di fatto per è una la persona realtà. Che non accetta certi compromessi, ce ne sono altri 100 che sono pronti a soddisfarle e venire incontro a questa cosa, per cui purtroppo le ditte un po' ci marciano. Quindi io l'unica cosa che mi sento di consigliare, al di là di fare delle scuole altamente specializzate e di avere una buona preparazione sul piano teorico e pratico, è anche quella di fare di essere molto accorti da un punto di vista contrattuale, di guardare bene prima tutto quello che adesso impongono un po' le nuove norme. Tra l'altro adesso con la riforma Fornero sono cambiate alcune cose, soprattutto sui contratti, quelli chiamati cosiddetta progetto, e quindi di valutare bene e ponderare bene tutte le varie soluzioni, anche perché poi di quelle che sono le scelte che faranno adesso, poi purtroppo ricadranno in beneficio, insomma, in bene e in male più avanti sulle loro spalle. Assolutamente, quindi mi pare di capire che da un lato il tuo consiglio è quello appunto di lavorare sulle proprie competenze, sulle proprie abilità, e dall'altro tenere gli occhi aperti, ecco, su quello che viene offerto, che sia appunto per un giovane. Benissimo, Barbara, io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a 12 minuti e ti auguro buon lavoro. Grazie, altrettanto, buona giornata. E ora un brevissimo intervallo musicale, ci ascoltiamo il pezzo All That She Wants, versione degli Smosh Quad. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, nella puntata di oggi parliamo di lavoro nel mondo del restauro e diamo il benvenuto alla nostra seconda ospite, Giulia Simbula. Ciao Giulia, benvenuta a 12 minuti. Giulia, qual è la tua situazione lavorativa in questo momento? Ciao, attualmente continuo, cioè lavoro con contratti a termine o al massimo come stagista, quindi si parla comunque di contratti di qualche mese, purtroppo. E Giulia, qual è stato invece il tuo percorso formativo? Il mio percorso formativo, ho conseguito la laurea breve, quindi triennale, in chimica per il restauro, e successivamente ho seguito un corso professionale per tecnico per il restauro presso l'ENAIPA Piazzola Subrenica a Venezia. Ecco, Giulia, finiti gli studi poi, qual è stata la tua esperienza, diciamo, lavorativa per entrare in questo settore? Quali sono secondo te i passi giusti da fare che consiglieresti ad un giovane che volesse entrare appunto in questo settore lavorativo? Finita la formazione, purtroppo tanti contatti come stagista. Poi dopo un po', una volta che ti fai un po' conoscere, allora hai qualche possibilità come contratto a tempo determinato. Comunque, qualche consiglio? Sono molto validi i corsi professionali per acquisire manualità e comunque conoscere un po' la materia. E poi si va come stagista, si girano le aziende e ci si fa conoscere, insomma. Quindi ecco, si fa un po' la gavetta, quindi esatto. L'importante è continuare a formarsi e un po' appunto poi entrare in questo settore appunto tramite stage e tirocini. Sì. Giulia, per il prossimo futuro quali sono i tuoi progetti lavorativi? Tra poco dovrebbero propormi penso un contratto per un restauro, rivalutazione di affreschi in Palazzo Venezia. Si tratta soprattutto di pulitura, quindi sono comunque già affreschi, già visionabili, ma manutenzione, diciamo. Ok, allora Giulia, grazie per essere stata qui con noi e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. E dal mondo del restauro ecco alcune informazioni utili. L'Istituto Veneto per i beni culturali di Venezia attiva un nuovo corso professionale di tecnico del restauro dei beni culturali della durata triennale. Le iscrizioni vanno presentate entro il mese di novembre 2012 e i posti disponibili sono 15. Possono partecipare alla selezione cittadini italiani e stranieri in possesso di diploma. Per informazioni potete consultare il sito www.ivbc.it. Sono aperte anche le preiscrizioni per l'anno 2013 al corso in tecnico del restauro dei beni culturali di ENAIP presso il centro di restauro Andrea Mantegna di Piazzola sul Brenta. Il percorso formativo si articola in 3 annualità per un totale di 2700 ore di formazione, laboratori, cantieri e stage aziendali in Italia e all'estero. Il corso si rivolge a diplomati e laureati in cerca di primo lavoro o di occupati o anche a lavoratori occupati che vogliano qualificarsi per trovare ulteriori opportunità lavorative più coerenti con le loro aspettative di vita e professionali. Per informazioni più dettagliate potete collegarvi al sito www.enaip.veneto.it. Dal 23 al 25 novembre 2012 presso i magazzini Ligabue di Venezia si terrà il Salone dei Beni e delle Attività Culturali di Venezia, che presenta anche quest'anno Restauro. Lo spazio dedicato al restauro di beni culturali italiani in cui aziende, professionisti, operatori specializzati, istituzioni ed enti pubblici si confronteranno su questo tema. La vetrina espositiva di restauro è anche l'occasione in cui le nuove tematiche e le nuove tecniche all'avanguardia e quelle già in uso sul territorio italiano e straniero vengono presentate agli operatori del settore ma anche al pubblico non specializzato. Gli espositori di restauro sono imprese edili specializzate negli interventi di restauro, produttori di materiali e vernici particolari, aziende costruttrici di strumenti di diagnostica, centri di formazione per tecnici e professionisti, case editrici specializzate e associazioni di categoria. Oltre agli spazi espositivi, ad ogni edizione di restauro viene proposta anche una ricca scaletta di convegni e momenti formativi. Per informazioni potete consultare il sito www.expovenice.it. Infine, vi segnalo che dal 22 al 24 novembre 2012 a Lipsia, quindi ci spostiamo all'estero, si terrà Denkmal, fiera europea del restauro, del risanamento e della tutela degli edifici storici. Sono previste conferenze tecniche internazionali, incentrate quest'anno prevalentemente sul tema del restauro ligneo e del risanamento energetico degli edifici storici. Sono previste anche manifestazioni fieristiche come Edilizia in argilla cruda e Mutec, che è l'esposizione internazionale di tecnologie museali ed espositive, che è la sua prima edizione a Lipsia. La fiera mette a disposizione, sempre a titolo gratuito, interpreti in tutte le lingue. Per informazioni più dettagliate potete collegarvi al sito www.denkmal-leipzig.de o contattare la Camera di Commercio Italiana per la Germania collegandovi su www.itcam.org. E prima di salutarvi, come al solito, brevissima anticipazione sulla prossima puntata che sarà dedicata al tema dell'apprendistato. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro.